siamo fuori, chi se ne frega. Ma quando ritorni a casa al mattino, amico mio, ci credi, quello è un gran bel casino. Salire le scale con passo felpato, stando attento che nessuno si sia svegliato. Si apre la porta, ti becca tuo padre, hai la testa nel cesso, che cazzo ci puoi fare allora?